ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ma cosa succede? Credo che abbiamo ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? Adesso sono andato in carabinieri, cioè c'è sangue dappertutto, lei è sdraiata per terra. Sei anni dopo si ricomincia da lì, da questa telefonata del 13 agosto 2007 partita da una villetta di Garlasco. Sei anni dopo si riparte di nuovo da chi trovò il corpo straziato di Chiara Poggi. Dunque si riparte da Alberto Stasi, l'ex fidanzato, il bocconiano unico accusato della morte di una ragazza dal sorriso aperto e gli occhi lucenti. Dopo due assoluzioni la Cassazione inverte la rotta di questo che è uno dei più controversi processi indiziari degli ultimi tempi e ordina un nuovo dibattimento di secondo grado, un ribaltamento come era già successo per il caso di Perugia, la morte di Meredith Kerscher, prima la condanna per Amanda e Raffaele, poi l'assoluzione, poi tutto da rifare e in un colpo sia per i due ex fidanzati di Perugia che per il biondino Pavese, il fantasma di quelle case non svanisce, mentre sfuma all'improvviso il sollievo provato dopo le sentenze di secondo grado. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 4-5 dicembre 2009 dalla Corte di Assise di primo grado di Perugia nei confronti di Nox Amanda Marie e Sollecito Raffaele, assolve entrambi gli imputati dai reati loro scritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo E, per favore, perché il fatto non sussiste. Conferma la sentenza pronunziata dal GUP presso il Tribunale di Vigevano in data 17 dicembre 2009 nei confronti di Stasi Alberto, indica in giorni 90 il termine per la stesura della motivazione per il deposito della sentenza. L'udienza è chiusa. Da Perugia a Garlasco, questa non è solo la storia della morte tragica di due giovani ragazze, come potrebbe essere pure quella di Sara Scazzi ad Avetrana. Questa non è solo la storia di casi controversi e discussi, ma questa è anche la storia di terribili delitti che pendono sulle facce giovani degli imputati. Alberto Stasi, Amanda Nox, Raffaele Sollecito. Sono invece minorenni le due amiche di Udine che hanno confessato di essersi sentite come in un videogame mentre uccidevano un pensionato. Minorenni come erano nel 2000 Milena, Ambra e Veronica quando massacrarono Suor Maria Laura Mainetti nel nome di Satana. E minorenni erano anche alcune delle cosiddette bestie di Satana nel Varesotto. La maggiore età l'aveva invece appena raggiunta Pietro Maso, da pochissimo tornato libero dopo 22 anni di carcere e dopo il peso del terribile delitto commesso, il massacro dei genitori. A ciascuno il suo di questa settimana va dunque nel dietro le quinte di alcuni dei casi di cronaca nera più discussi e più controversi, anche perché sul banco degli imputati ci sono giovanissimi, ma dall'altra parte ci sono pure genitori, fratelli, amici delle vittime che aspettano risposte e verità. Come la mamma di Chiara Poggi, Rita, che dopo 6 anni ora torna a sorridere, anche se certo non vuole e non può esultare per una sentenza della Cassazione che ordina un nuovo processo per Stasi. Non è una vittoria, né? Quindi non è che si è esultato. Soddisfatti, speravamo, la speranza era poca, però è venuto fuori così, adesso vediamo. E noi cerchiamo, diciamo, una verità, almeno adesso finalmente abbiamo trovato qualcuno che ci ha creduto. Un passo in più. Un passo in più, sì. Non mollerete, l'avete sempre detto. Mai, fino a quando non ci sarà, fino alla fine, fino a quando non ci sarà la verità. Lei ha detto, hanno capito che Chiara aspetta giustizia. Sì, è vero. E che bisogna fare tutto il possibile per cercare di darle giustizia, per trovare la verità sulla sua morte, perché fino adesso non è ancora uscita. Sono contenta che loro abbiano capito, ecco. Quindi questo nuovo processo che ci sarà per Alberto Stasi per voi rappresenta una nuova occasione per andare a capire davvero che cosa è successo? Che cosa è successo, esatto. Qual era la sua paura? La sua paura era che se la Cassazione avesse confermato le assoluzioni, la morte di Chiara sarebbe rimasta senza un responsabile e senza un perché. Io avrei continuato, In ogni caso, anche se fosse stata confermata la sentenza precedente, io avrei continuato. Non so come avrei fatto tutto quello che mi era possibile, tutto. Non posso fermarmi io. Fino a quando non so la verità sulla morte di mia figlia, io non posso fermarmi. Oggi non siete voluti andare ad ascoltare il verdetto della Cassazione, meglio aspettare in casa, posso chiederle? Abbiamo preferito così. Eravamo qui fisicamente, col pensiero là, comunque, abbiamo preferito stare qui, sì. Ecco signora, gli avvocati di Alberto Stasi dicono: anche noi vogliamo che ci sia giustizia per la morte di Chiara, però questo non vuol dire che il responsabile è Alberto. Non commento, guardi, non li commento io le dichiarazioni degli avvocati. Lei è stata al cimitero da Chiara? Oggi no, sono andata ieri. Sono andata ieri mattina. Io le ho sempre detto: tu che la verità la sai, guida chi di dovere, guidali perché capiscano, guidali verso la verità. A chi come voi, genitori di Chiara, 6 anni dopo siete ancora in assenza di una risposta? Perché appunto ci sono stati a questo punto 3 gradi di giudizio con 2 assoluzioni, ora un annullamento dell'assoluzione. In ogni caso comunque ancora manca la certezza fino in fondo di quello che è successo. E a voi che aspettate queste risposte? Che pensieri vengono? Che sia stato sbagliato qualcosa all'inizio? Io dico sempre che chi lavora può sbagliare. L'importante è che ci sia una collaborazione tra tutti. Infatti noi, quando abbiamo riscontrato qualche elemento che non ci quadravano, abbiamo presentato delle memorie, abbiamo chiesto degli approfondimenti, insomma. Ora tutti dicono che un elemento importante sarà quel capello trovato tra le mani di Chiara. Sì. Anche voi pensate che sia da lì che bisognerà ripartire? Beh, anche quello è importante, certo. Non capisco perché non l'avevano esaminato prima. Io non lo so, non l'ho mai capito. Noi vogliamo che sia fatta chiarezza. Ma ci credeva che la Cassazione avrebbe riaperto il caso? Avevo preso in considerazione che uscisse un'altra sentenza. Cioè, io speravo in questa, però avevo considerato che potesse anche esserci una sentenza opposta. Non c'erano i genitori di Chiara nel palazzaccio e non c'era ad ascoltare il verdetto nemmeno Alberto Stasi, l'ex bocconiano, l'unico mai indagato per la morte della fidanzata e l'unico, a detta del procuratore generale, che avrebbe avuto un movente per ucciderla, quei file pedopornografici trovati nel suo PC. Giustizia non è la condanna di Alberto, obiettano i difensori convinti della sua innocenza. Fabio Giarda. C'è sempre stata questa associazione: vera giustizia uguale la condanna di Alberto. Non è questa vera giustizia. Noi siamo d'accordissimo con la famiglia di Chiara Poggi. Vorremmo anche noi avere che ci fosse giustizia per Chiara Poggi. Però questo non può passare dalla condanna di Alberto, perché se non ci sono prove nei suoi confronti è evidente che non può essere questa la giustizia che la famiglia vuole. La vogliamo anche noi. I video, se video ci sono, perché sono spezzoni di video, probabilmente scaricati inconsapevolmente, arrivano fino ad aprile del 2007, l'omicidio di agosto, fate voi. Un'altalena di sentenze per il delitto di Garlasco come per quello di Perugia, un'altalena di versioni, confessioni, ritrattazioni e reciproche accuse ha scandito invece il più mediatico degli ultimi processi di sangue, quello di Avetrana, prossimo ormai alla sentenza di primo grado, tutto sviluppato all'interno dello spazio chiuso di una sola famiglia, tutto più che raccontato, ma tutto ancora comunque aperto nelle aule di tribunale. Come tutto ancora da chiarire è il caso di Udine, nonostante la confessione delle due ragazzine, ancora una volta giovanissime sul banco degli imputati per reati gravissimi, ancora una volta però forse ragazzine condizionate da quello che i magistrati chiamano comportamento gruppale, quando cioè è la logica del gruppo, anche se ristretto a 2 persone, a prevalere. E da qui ripartiamo nella seconda parte di A Ciascuno il Suo, con 2 magistrati, una si è occupata di Pietro Maso, l'altra delle bestie di Satana, ma più di recente anche di Ruby. A ciascuno il suo. Il suo nome, anche oggi, 22 anni dopo, è il sinonimo di uno dei delitti più terribili e crudeli, l'omicidio dei genitori, per potersi comprare, questo fu il racconto, auto, vestiti e profumo. Oggi Pietro Maso, dopo 22 anni di carcere e proprio a ridosso dell'anniversario di quella sera del 17 aprile 1991 in cui con tre amici e con le maschere calate sul viso uccise la madre e il padre, oggi Pietro Maso a 41 anni è un uomo libero, con una moglie e con la voglia di ricostruirsi una vita come ha fatto già con i rapporti con le sorelle. Le statistiche ci dicono che il recupero, soprattutto per i giovanissimi, funziona. È il vuoto che accomuna chi commette delitti così. Quando ho conosciuto Pietro non aveva neanche un sogno. Pesca tra le sue carte, ma anche tra le sue personali impressioni, queste parole Roberta Coccia, il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accompagnato Maso fino al ritorno in libertà il 25 aprile 2013. È stato un percorso passato anche attraverso quel giorno in cui a Pietro la psicologa chiese: sono tua madre, cosa mi dici? Quello che io ho firmato sono stati le progressive aperture agli spazi di libertà che sono state negli scorsi anni, e aprire progressivamente spazi di libertà per costruire un percorso di ricostruzione che non fosse improvviso. Dopo 20 anni di reclusione, essere buttati di nuovo nella vita può essere veramente uno shock devastante. Maso è uno che l'euro non l'ha mai visto, insomma. Si è ritrovato da questo punto di vista anche in un altro mondo. È proprio questo il senso. L'obiezione che alcuni fanno, chi ci può assicurare che non torni a commettere reati così gravi, ad esempio, non so, si cita il caso di Angelo Izzo, la vicenda del Circeo, in uno dei permessi poi era tornato ad uccidere. Questa certezza non potete averla neanche voi. No, assolutamente. Chiaramente la prognosi non è una certezza. A fronte di un Izzo, a fronte di questo ci sono veramente tantissime persone recuperate. Ma se lei dovesse dirci chi è oggi Pietro Maso? Pietro in questi 20 anni abbia avuto anche un po' attraverso l'avvicinamento con la fede, sia persona che forse ha percepito l'importanza di coltivare i valori veri, no, della vita, gli affetti, le persone che ti stanno intorno, ha recuperato il rapporto con le sorelle, anche questo un'operazione difficilissima. È un uomo secondo lei in questo momento pronto anche a farsi una sua famiglia? Si è già sposato? Quando io l'ho conosciuto lui non aveva nessuna speranza, che dopo i primi anni di notorietà, diciamo, in cui è stato tempestato di lettere da varie persone, vari ragazzi, una situazione quasi surreale, poi è caduto nel dimenticatoio, deve essere stato il baratro finale per lui. In base anche alla sua esperienza, il condizionamento anche geografico, ma nel senso ampio del termine, come ambiente al di là della regione, sì. Cioè se in sì. qualche modo ci possono essere termini, punti di contatto tra Maso, le ragazze di Udine per dire, o prima sì. erano state quelle di Chiavenna, casi completamente diversi ma che però hanno in comune il fatto che ragazzi molto giovani abbiano commesso dei reati molto gravi. Le persone che vedo in carcere, c'è anche uno delle bestie di Satana, è effettivamente inquietante leggere questo vuoto siderale, no, che circonda i ragazzi, e questa necessità quindi di identificarsi in un gruppo che dia forza, sostegno, soprattutto alle persone che hanno delle fragilità immense. Il vuoto come elemento comune. Sì. Nessun sogno se non quello della scalata sociale che coincide mediamente nell'acquistarsi le belle cose. Le è mai capitato di parlare con Pietro Maso di altri fatti di cronaca gravi? Mi è capitato di parlare con lui del suo fatto di delitto, anche insieme a una psicologa che mi aveva aiutato e supportato nei primi colloqui, perché si trattava di persona veramente difesa, molto chiusa. La psicologa che era con me all'improvviso gli ha girato la sedia, l'ha guardato fisso e gli ha detto: io sono tua madre, adesso cosa mi dici? È stato un silenzio veramente impressionante. Lui ha cominciato a tremare, non riusciva neanche a guardarla, tanto che ai colloqui successivi mi ha chiesto di non portarla più. Ora un sogno ce l'ha? È felice di questo matrimonio, ama la donna che ha sposato e credo che a lei debba l'aver acquistato un po' di stima verso se stesso. Prima della speranza, il vuoto, dunque, come elemento che accomuna alcuni giovanissimi responsabili di delitti. Il vuoto come quello raccontato anche da uno dei protagonisti delle Bestie di Satana, di cui si è occupata come magistrato del Tribunale dei Minorenni anche Anna Maria Fiorillo, la stessa che poi, anni dopo, avrà tra le mani il caso Ruby Rubacuori e la famosa questione dell'affido a Nicole Minetti. Francamente ho avuto dei delitti gravissimi, in particolare tentato omicidio da parte del giovane dei due genitori, ma questo è un ragazzo figlio di persone, chiamiamole per bene, di un livello culturale elevato. Sì, nei delitti di un certo tipo si possono individuare delle ragioni comuni, per esempio i reati commessi dalle bande latinoamericane, le loro storie mi sembrano tutte fotocopiabili. Io ho trattato quello delle Bestie di Satana, c'è a livello collettivo, gruppale, è come se il gruppo funzionasse come un animale, no? Che ha un suo spirito, che deriva per sommatoria da quello degli altri, ciascuno dei appartenenti non si sente responsabile. Nella storia delle Bestie di Satana c'erano diversi indagati, certo. Uno era un autore materiale, Maccione, raccontava, l'ha scritto in un suo memoriale, raccontava che quando era molto piccolo aveva l'impressione di essere solo, non visto. Nel venire a contatto con questa vicenda, come anche con le altre, vedo il perfetto incastro delle storie. Questo bambino invisibile veniva poi affascinato dal mondo invisibile. Andava a cercare il contatto con le entità invisibili. Saliva nella solaia dell'abitazione dei nonni e andava lì e faceva attenzione ai rumori, perché era un bambino abituato a considerare se stesso come un fantasma, come una presenza. Ma una logica del gruppo può valere anche per un gruppo ridotto di amiche, come potevano essere quelle di Chiavenna, ad esempio, ora queste di Udine, oppure può valere anche all'interno delle ragioni di uno stretto nucleo familiare? Beh, tra amiche certamente è possibile che si crei, come posso dire, un codice di appartenenza. La commissione di determinati reati è in qualche modo una patente di questa appartenenza. Che cosa vuol dire quando ci sono delle ragazze, come è stato nel caso di Udine, che dicono di sentirsi come in un videogame? Sono così abituati a vedere la violenza, la morte rappresentata come falsa, quindi con la coscienza della falsità, che innanzitutto no, questo non suscita in loro alcuna emozione. E poi, quando vedono che questa cosa si realizza veramente nei fatti, a volte hanno difficoltà a cogliere la differenza, cioè per loro è falso, è finto. Io ho avuto una ragazzina che è stata portata in una casa e per essere violentata da un gruppo di ragazzi, alcuni minorenni e alcuni maggiorenni, e quindi ha cominciato, per così dire, a fare quelle cose che prima vedeva rappresentate dal vero. Stava male, ma neanche lei percepiva poi questa grande distanza. Ha cominciato a avvertire tutti gli amici, in particolare il suo fidanzatino storico, che era l'unico con cui non aveva rapporti sessuali, 40 messaggi nel giro di meno di un'ora. Quindi mandava in diretta il racconto di questa sua subita violenza. Lei cosa crede, che questo ragazzino sia andato a chiamare i genitori? No, ha avvisato tutti gli altri ragazzini di quello che stava succedendo alla comune amica e nessuno di questi ha pensato di avvertire la polizia di fare qualcosa, ma perché neanche forse sono stati così colpiti, perché almeno dal tenore dei messaggi non risultava questo loro coinvolgimento emotivo, non c'è emozione, ecco, no. Questo è un altro aspetto che colpisce. La maggior parte dei delitti di sangue che riguardano i minorenni sono... potrebbero qualificarsi delitti che sono motivati da questa incapacità di cogliere nell'altro una presenza umana, cioè c'è un tale congelamento delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, che non colgono la sofferenza e quindi il senso di umanità della persona che è offesa dal cioè dalla vittima condotta. Smette di essere una persona. Andandoci verso la conclusione, che non posso non chiederglielo, che cosa ne ha pensato, adesso parlo di tutt'altro ovviamente, della protesta davanti al tribunale che ha fatto Ruby? Credo che sia coerente con tutto il suo passato, perché purtroppo per la legge di causa effetto, quando ci sono delle storie così difficili alle spalle, poi anche i comportamenti, mi sembra che non abbiano utilità rispetto alla sua vita. Nel processo a carico di Fede Mora e Minetti verrà ascoltata. Lei ha chiesto di poter dire la sua parte. Nel processo sì, può essere una grande occasione per dire veramente quella che è la sua verità. E lei l'ha reclamata questa cosa? Vabbè, però al processo, il fatto di mettersi in mostra sui gradini di un palazzo di giustizia esponendo queste cose, secondo me non fanno bene alla sua vita. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare le puntate, il sito radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce. Su Twitter l'account invece è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.